Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Alessandro Milan con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Signori, sono le 9:06 minuti. Senti che incedere, eh? Le 9:06 minuti ti è venuto, eh? No, ma era per la sigla. Ti sei lasciato subito condizionare. Siamo i funamboli, siamo qui. C'è Veronica Gentili, io sono Alessandro Milan. Ben ritrovati a tutti voi, cari ascoltatori. Funamboli, @radio24.it. Se volete scriverci, se volete chiamarci, 800 24 00 24. Poi c'è Leonardo Manera che arriva qui, si aggira, inizia a dire: mi dai la chiavetta che vado a bere un caffè. Secondo me si sta facendo una pennica di là. Però, addirittura. Non lo so, la faccia era quella. Sì, era di quelle, come dire, vabbè, ieri voi... ho fatto serata. Esatto, era del voi andate avanti che a me mi vi ha da ride, come si dice a Roma. Esatto, allora siamo qui con il nostro alpino Peter Bescapè in regia, il nostro Lorenzo Nespoli, il nostro, la nostra Elisabetta Fusconi, la nostra Elisa Pancaldi. Questo è il gruppo dei funamboli che si ritrova anche oggi qui in diretta fino alle 11. Cara Veronica. Mio caro. La prima funambola che invitiamo idealmente è questa ragazza che sta su tutti i giornali. Ha ottenuto il suo quarto d'ora di Woroliana celebrità. 26 anni di Pordenone, ha fatto causa al papà perché da fannullona, questo pare accertato, nel senso che all'università non dà esami, non studia, fannullona, non lavora. Fannullona, anche tu come sei fannullona, subito. Fannullona, ma lo sai che in Italia abbiamo un record europeo dei cosiddetti NEET, cioè di ragazzi che non lavorano e non studiano, un ventenne su tre non studia e lavora. E lei che ha fatto? Ha portato il tribunale, il padre, per avere una bella cospicua paghetta. E il tribunale gli ha dato ragione. Le ha dato ragione. E quindi il padre deve darle, credo, 1.000 euro al mese, più pagarle le vacanze, pagarle la retta, pagarle l'alloggio. Ha diverse spese la ragazza e quindi ha bisogno di alcuni soldi per le spese personali, di altre spese per l'intrattenimento, altre spese per le tasse universitarie, insomma ha diverse spese. A lavorare! Giusto appunto, no? Io, la ragazza ha 26 anni, ma anche noi nati negli anni 80 ogni tanto abbiamo bisogno. Io ieri ho chiamato il mio papà e gli ho detto: papà, hai visto la situazione lì della ragazza? Hai visto cosa ha detto il giudice? Quindi anch'io stavo pensando e ho sentito tu. Ecco, purtroppo. Però non vai da un avvocato, perché c'è anche questo da dire: c'è un avvocato, per carità, ha fatto il suo lavoro questo avvocato, che ha colto questa ragazza di 26 anni del suo studio a dire: prego, venga, mi spieghi cosa vuole fare lei. Voglio querelare mio padre, voglio portarlo in tribunale perché mi deve mantenere, deve darmi la paghetta. Alessandro, secondo me la cosa più inquietante di questa storia è la sentenza della Corte, che ha risposto che c'è una certa inerzia nella maturazione dei giovani che porta nell'arrivare all'indipendenza dei giovani ragazzi, e che il padre deve accompagnare, ha l'obbligo di accompagnare il figlio in questo percorso di maturazione. L'obbligo. Sì, certo, purtroppo l'obbligo. Il problema è perché la maturazione c'è, cioè, questa dal portafoglio, fatica però, nel maturare, perché questi ragazzi non crescono e quindi da lì inizia, perché sono bamboccioni, che cosa è successo, perché altrimenti uno dice: ma come mai una corte ha avuto il coraggio di dare ragione a una cosa che a tutti noi sembra così grottesca? Io sto con questo padre, Gino Cecchini, che oggi a Repubblica in un'intervista dice: questa ragazza, la mia figlia, fannullona, non studia, non lavora, e io per sentenza la devo comunque mantenere. Ma vi pare normale? No, non è normale, a mio modo. Allora ragazzi, fatevi due conti. Oggi pomeriggio telefonate all'avvocato e chiedete esattamente il mantenimento che vi serve ai vostri genitori, preciso, spiegando spese, e poi dite che avete difficoltà a maturare. Lascia stare che io ho già dato a mia figlia di 11 anni per la Capito? Prima volta il cellulare. Vuoi toglierle gli alimenti a 11 anni? No, dillo, no, che vuoi farlo, dillo. Allora 800 24 00 24, chiamateci su questo tema se volete, se state col padre, se state con la figlia, e su altri temi, perché noi iniziamo da altro. Oh, yeah. Come sempre ci ha spiazzati con i suoi gesti istintivi, diretti, concreti, impegnativi ma fatti con il cuore. Ci ha insegnato a camminare da soli, perché non era una persona gelosa del suo sapere, ma orgogliosa di far crescere le persone che aveva scelto alle sue dipendenze. Siamo stati sempre coinvolti, partecipi, spronati al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali, sempre tutti insieme. Come insieme abbiamo affrontato il suo periodo di malattia. Il nostro motto è stato sempre quello: non lasciamolo solo, ma stiamogli accanto come una famiglia. Lo abbiamo fatto, lo faremo restando una famiglia unita e facendo vivere il sogno di Andrea, per ringraziarlo di ciò che ci ha dato, ma soprattutto per fargli vedere che grande maestro è stato, donandoci le sue quote insieme alla sua fiducia. Allora, queste righe, cara Veronica, che hai letto, sono state pubblicate e sono state scritte dagli ex collaboratori, dipendenti, soci di Andrea Comand. Andrea Comand era una persona morta qualche giorno fa, una persona che non era nota prima che emergesse questa notizia sui giornali. 39 anni di Mortegliano, dunque siamo in Friuli Venezia Giulia. A luglio è morto dopo una malattia. E cosa ha fatto? Ha deciso di lasciare le proprie quote dell'azienda, che poi è un garage, un'autofficina, ai suoi collaboratori. E noi qui abbiamo come primi funamboli, se volete, della giornata Dorina Bulfoni, che salutiamo, è uno dei 5 dipendenti che hanno ereditato l'officina di Andrea Comand. Dorina, buongiorno e grazie. Buongiorno. Di essere qui con noi. Buongiorno e grazie a voi. Ovviamente l'hanno chiamato un gesto da libro cuore, un gesto. Io credo che tanta retorica forse, ma ci aiuterà lei a capire, non si addice a questa storia, o non lo so, ci corregga se sbaglio. È una storia bella sicuramente, ma anche un gesto significativo che voi avete interpretato come, cara Dorina? Noi l'abbiamo interpretato come un gesto di amicizia e fiducia. Mm-hmm. Che sono due valori che ultimamente sono rari infatti è per quello che vogliamo raccontare questa sì. storia, che se volete è una piccola storia di provincia, ma può essere anche interpretata come una grande storia, una sì. grande lezione di vita anche. Se così la vediamo dal punto di vista dell'amicizia, se la vediamo dal punto di vista lavorativo, cioè come datore di lavoro, è un grande esempio, perché alla fine ci ha considerato come persone e non come numeri, come purtroppo in tante aziende succede. Dorina, ma com'era Andrea? Che rapporto avete costruito anche quando lui era ancora, insomma, il proprietario dell'azienda e voi eravate i dipendenti? Come si lavorava insieme? Bene, perché lui è sempre stata una persona che non era gelosa di ciò che sapeva. Ed era una persona umile, nel senso che ascoltava sempre tutti i pareri, non viaggiava da solo. Quindi appoggiandoci sempre e standoci sempre vicino nelle sue scelte e spiegandoci il perché faceva certe cose piuttosto che altre, ci ha sempre resi partecipi e fatto sentire nostra l'azienda, anche se eravamo dipendenti. Quindi non vi siete mai sentiti lontani, no, gerarchicamente parlando? No, assolutamente no. Questo è un punto fondamentale, perché, cara Dorina, noi ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi quando la vicenda è uscita sui giornali. Spesso si interpreta le piccole e medie aziende. Questa è una piccola azienda. Quanti siete adesso i dipendenti? Ah, sì, piccola, siamo i 5 soci più 2 dipendenti. Esatto. Mm. In molte di queste realtà spesso si dice, lo si racconta, non c'è quel rapporto. Lei ha detto, in tante aziende c'è un rapporto ovviamente spersonalizzato con, certo, i datori di lavoro, no? Soprattutto nelle grandi aziende. Nelle piccole e medie aziende, che sono poi il tessuto imprenditoriale di tutta l'Italia, invece questo rapporto, in tanti casi, nel vostro, mi sembra di capire in maniera esemplare, è un rapporto umano molto forte. Cioè non c'è il padrone e il lavoratore, no? No, siete tutti no. nella stessa barca, siete tutti a remare nella stessa direzione. Sì. Ma lui vi aveva preannunciato questo regalo che vi avrebbe fatto, questa donazione, oppure è stata una sorpresa completamente? No, è stato un regalo proprio, una sorpresa bella, perché non possiamo dire altro, e inaspettata, perché chi se l'aspettava che Andrea pensasse a noi in un momento difficile della sua vita, in cui aveva sicuramente altro che pensare. Vogliamo ricordare che tipo di azienda è? Un'autofficina? Sì, è un'officina meccanica, riconosciuta in zona perché Andrea c'è sempre, era particolare nel senso che è sempre stato molto una persona molto disponibile, gentile, portava sempre a buon fine tutti i lavori che, in cui si impegnava a prendere, insomma. E quindi alla fine i clienti gli si affezionavano perché anche loro diventavano, non dico amici, ma comunque simpatizzanti. No, ma questo è un altro punto fondamentale, perché in genere poi quando succede un'impresa, cosa fa? La cosa più naturale è lasciarla, nel caso di una vicenda tragica come in questa situazione, visto che aveva 39 anni, di lasciarla, non so, a un familiare, a un parente. Certo. E invece ha sentito proprio il desiderio di condividere con le persone che avevano condiviso con lui il percorso imprenditoriale, di farlo continuare a voi. Questo sì, mi esatto. Sembra. Questa mi sembra... è stata una donazione diretta, quindi alla fine la famiglia non, cioè, ci ha appoggiato in tutto perché ha condiviso pienamente la scelta di Andrea e con la speranza che noi dicessimo sì, continuiamo e andiamo avanti. Infatti quando gliel'abbiamo comunicato a loro prima che a tutti gli altri, erano felici. Era come far rivivere Andrea per loro, quindi... Beh, quindi anche Andrea si è circondato di persone di alta qualità, perché appunto non si sono creati nemmeno quei conflitti che potevano essere immaginabili con una famiglia eventualmente competitiva, no? No, assolutamente. Cioè la famiglia, guardi, è stata... cioè ci ha adottato, cioè veramente è una cosa bella. Ma per quello sembra tutta una favola, però è vera, nel senso è così. C'è tanto, alla fine c'è tanto amore. Che questa è la cosa più importante. Vogliamo tra l'altro ricordare lei, Dorina Bulfoni, parla anche a nome di Andrea Benvenuto, Andrea, certo, Cuzzolin, sì, Giuliano, sì. Fabbro e Simone Zanin, insomma, sì, i nostri, che sono i miei nuovi soci. Che bella questa cosa, i suoi nuovi soci. Come siete divisi in quote uguali? Cioè ci spieghi anche come vi ha lasciato l'azienda, tutti in quote uguali? Sì, tutto, siamo tutti a quote uguali e praticamente poi faremo le nostre scelte, ma al momento non c'è stato il tempo, quindi dobbiamo ancora un attimo organizzarci. Certo, mi sembra comunque giusto. C'è tanta armonia, quindi non ci saranno sicuramente dei problemi e soprattutto se ci saranno ci viene sicuramente Andrea davanti e li cancelliamo, quindi andrà benissimo. È bello, Dorina, sapere che ci sono delle storie belle ogni tanto che vengono fuori, infatti. Anche quando si verifica qualcosa di tragico, ma che escono delle storie belle che erano silenti nel paese, ogni tanto esatto, succede. Infatti dico sempre, ha scatenato, scusate il termine, una confusione, che sarebbe un altro termine, in tutta Italia, per una cosa bella finalmente, perché veramente... cioè dalle persone belle escono cose belle. Ma sa, Dorina, purtroppo anche cercare. Noi giornalisti in questo siamo un po' complici e in maniera negativa nel privilegiare sempre le solite cose, le solite cose e anche le notizie negative alle persone, le cose brutte delle cose belle. Comunque noi la ringraziamo davvero, Dorina Bulfoni, che ha parlato a nome dei 5 dipendenti, certo, che hanno ereditato l'officina di Andrea Comand, questo imprenditore di Mortegliano che è morto a luglio, ma ha lasciato, ha deciso di lasciare l'azienda, la sua azienda, quella che era la sua azienda, ai dipendenti, agli ex dipendenti, che ora sono gli imprenditori di questa azienda. E noi possiamo fare in bocca al lupo a Dorina e ringraziare a nome di tutti quanti Andrea, se non altro per l'esempio che ci ha lasciato e per questo sorriso e momento d'allegria tra le notizie complessivamente negative delle giornate che stiamo vivendo. E allora alle 9:19 minuti, cara Veronica, certo adesso ci dobbiamo buttare invece su appunto. Un tema che spacca un po' in due. Quello dei vaccini, ma guarda anche quanti ascoltatori ci sono sul tema della ragazza, il padre, tanti funamboli con noi. Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule, American history and practical man, you study him hard hoping to pay. Io devo smetterla di ballare, mi devo ricordare che siamo in diretta su Facebook, video. No, vabbè. Anche qual è il tuo lavoro dovresti ricordarti, no, perché se avessimo voluto farti fare la cubista ci saremmo regolati diversamente, no? C'è Lorenzo che ci chiama da Monza, che ci vuole dire Lorenzo? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi propongo di trovare un posto di lavoro per questa ragazza che ha 26 anni, non riesce a essere dipendente dal padre. Ma vivo... lei va bene così forse? A lei va bene così? C'ha la paghetta adesso, 1000 euro al mese, quindi non... L'indipendenza direi che è un dovere morale di ognuno, nonché aiuta la crescita personale. Sì. Lorenzo, che lei è un guru, lei è un guru, Lorenzo. No? Lorenzo, ma lei ha figli che le chiedono soldi? Appunto. Sì, ma per ora, siccome i figli sono di piccoli. 12 anni e tocca 8, dargli. Oppure tocca dargli, ne chiedono molti meno. Per oppure fortuna. Li sistema, lo so. È più facile ancora. Vabbè, esatto. Mi pare di capire che lei sta dalla parte, tra virgolette, del padre, nel senso che volendo del trovare... padre e di tutti coloro i quali a 26 anni avevano provato, stavano finendo l'università e poco dopo hanno dovuto affrontare il mercato del lavoro. Caro Lorenzo, grazie. Andiamo a Sergio da Milano. Buongiorno Sergio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Non mi resta che constatare amaramente l'ennesima picconata da parte dello Stato nella persona della magistratura all'istituzione della famiglia. Secondo me il problema sta tutto lì. Intanto non si è parlato della madre, perché i padri ormai li hanno già fatti fuori. Sono i padri che devono pagare, dare la paghetta, eccetera, eccetera. Ma io vorrei dare un consiglio a questo signore che si trova a dover elargire 1000 euro al mese alla sua figlia. Avrebbe forse dovuto essere un pochettino più attento nella fase dell'educazione. Perché onestamente sono padre anch'io, una ragazza che ha 26 anni e ancora senza artene parte e osa, tra virgolette, alardire di denunciare il proprio genitore... Non è stata educata, però Sergio io non farei la morale. No, però lui ha ragione, perché il papà lo dice nell'intervista di questa mattina, lui si rimprovera per essere stato troppo permissivo e per non aver saputo mettere dei freni. Però quindi... dice di avere anche un'altra figlia con la quale mi pare il rapporto sia normale. Un approccio diverso. No, io in questo tema ho due figli, sono un po' più piccoli, non mi permetto di giudicare, perché quelli che puntano il dito e dicono non è stato in grado di educare, poi... magari chissà se sono in grado io di educare, cioè è un tema così delicato, per cui prima di dare sentenze morali, nel senso di non è stato in grado di educare, non lo so, ecco, non sono cresciuto con loro e quindi... Ma infatti prendiamo per buone le parole del papà, che dice appunto fa un'autocritica, e poi le persone crescono anche in base alle loro soggettività, non necessariamente questo vengono tutti uguali. Comunque, cara Veronica, adesso vogliamo introdurre il tema dei vaccini, lo vogliamo fare sempre con il nostro approccio, raccontando delle storie di persone, perché il tema, e questa è una cosa che a me dà personalmente fastidio, è diventato anche in questo caso politico. Io non è che voglio giudicare, ma nel vedere Salvini che difende Zaia, governatore del Veneto, a dire sto con Zaia, chiaramente perché sono dello stesso partito, certo. È ovvio. Ecco, non vorrei che si trasformasse una questione che incide sulle vite quotidiane dei nostri figli, dei nostri genitori, della nostra società, si trasformasse anche questa nella classico schemone politico: tu stai di qua, quelli stanno di là. Io credo che sia un po' quello che sta avvenendo e che è avvenuto anche rispetto alla questione della puntura di zanzara legata alla malaria, sì, per cui è morta la piccola Sofia, appunto, proprio ieri. Cioè, si sta strumentalizzando la questione vaccini invece di discuterne, anche con delle opinioni diverse. Magari ci può essere chi ha delle contrarietà, chi la vede in un modo rispetto ad un altro, ma è stata utilizzata a fini meramente politici. Non a caso, per esempio, la Lega non aveva mai preso una posizione chiara, una posizione definita di contrarietà nei confronti dei vaccini, ora, che è emersa invece con, sembra più in maniera così, volendo essere sospettosi, una rivendicazione di autonomia locale e regionale anche a ridosso del referendum che ci sarà il 22 ottobre. Si è molto discusso anche della posizione del Movimento 5 Stelle, molto spesso sono stati accusati di avere tra le proprie file persone e esponenti politici che sono invece più scettici, che sono stati più, molto ambigui su questa posizione, più vicino ai free vax, diciamo così. Ma anzi, su questo sembra quasi, vogliamo dire, che la Lega si è detto molte volte, il Movimento 5 Stelle sembrava ammiccare alla Lega, in questo caso sembra accadere il contrario, cioè si sembra voler prendere, no, consenso in una base di persone che possono essere scettiche rispetto ai vaccini. Quindi la sensazione è che sia un argomento che, siccome è chiaramente molto sentito perché ha a che fare un po' con tutti, con le vite di tutti, si cerca di essere un po' ammiccanti su più fronti. Intanto, e questo è molto molto brutto. Noi abbiamo chiamato un signore che Avevamo già ospitato di recente, quando aveva intrapreso l'iniziativa di scrivere al giornale Il Mattino di Padova, quando aveva saputo che il governatore Zaia stava per ricorrere come Regione Veneto alla Corte Costituzionale contro il decreto Lorenzin sull'obbligo vaccinale, invitando Zaia a non farlo. Zaia non l'ha ascoltato. È Nicola Pomaro che salutiamo, ben ritrovato signor Pomaro. Buongiorno, grazie buongiorno di essere qui. Ricordiamo, lei la sua storia l'ha raccontata, è padre di una bambina che è immunodepressa, ha delle problematiche fisiche da affrontare e per questo non si può vaccinare proprio in maniera... Esatto. E quindi è esposta, qualora venisse a contatto con altri bambini non vaccinati, è esposta alle malattie. Sì. Zaia non... dica Pomaro. Mi chieda, poi le dico. No, Zaia, come vede, cioè, siamo dall'ultima volta che ci siamo sentiti, la vicenda è andata molto avanti, non solo la Regione ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, diciamo, non l'ha ascoltata, e ora la questione è diventata politica. Lei che impressione ne ha? Ma guardi, a me dà già molto fastidio che si metta sullo stesso piano la malattia vera, soprattutto la malattia oncologica, con le paure, diciamo i timori più o meno irrazionali, come se fossero opinioni allo stesso livello, cosa che non è assolutamente vero. Perché le garantisco che avere un figlio con una malattia grave come mia come la mia, diciamo, e altri, è un'esperienza che non auguro a nessuno. Altro che aver paura che nel vaccino ci siano chissà quali sostanze, eccetera. Quindi ecco, lei dice già porre sullo stesso piano un caso concreto come quello che è di sua figlia, con delle credenze, diciamolo così, delle credenze o delle ideologie già le dà, come dire, fastidio. È caduta la mia. Beh, secondo me uno degli aspetti più interessanti che introduce questo signore, che secondo me Alessandro è il funambolo per antonomasia, perché vivere in una situazione di questo genere, avendo una situazione così precaria in termini sanitari, familiari, e poi doversi confrontare con quelle che sono le resistenze della società, è proprio dover camminare sul filo e cercare di barcamenarsi. Sì, e soprattutto sentire magari quell'eco fastidioso, cioè guardare da una parte quotidianamente quello che è lo sforzo per stare a fianco a propria figlia gravemente malata, dall'altra parte sentire questo eco di dichiarazioni ridondanti: siamo pro vaccini, no, contro i vaccini, siamo no. Ma poi la discrasia tra avere a che fare con la malattia reale e dall'altra parte invece confrontarsi con tutte quelle che sono le chiacchiere o le ipotesi attorno a malattie eventuali, effetti collaterali su cui non si ha nessuna tangibilità reale. E questa cosa, quindi il problema dell'opinabilità, che è uno dei problemi fondamentali sul tema dei vaccini, è capire dove debba finire la possibilità di esprimere la propria opinione anche senza una consapevolezza reale in materia, è uno dei punti centrali su questa storia. Allora, alle 9:28 minuti, ho scaricato la batteria, ma adesso lo recuperiamo dopo la pubblicità. Nicola Pomaro, poi avremo anche un altro ospite che forse è già con noi, è il sindaco di Uboldo in provincia di Varese, Lorenzo Guzzetti. Buongiorno sindaco, ci sente? Buongiorno, sì, vi sento. Buongiorno. Il sindaco di Uboldo, che è un paese che quante anime fa in provincia di Varese? 11.000. Per una questione legata ai vaccini si è trovato in una situazione di essere addirittura, ma davvero, minacciato a morte? Sì, purtroppo sì. Appunto sentivo adesso le parole del padre che precedeva il mio intervento. È proprio per gente così che noi stiamo combattendo questa battaglia. Veramente non c'è nulla di politico, vi ho sentito anche prima. Anch'io ma non che ha combinato lei? Che ha combinato per... Sindaco, lei ha un bel caratterino, ho letto il suo post, è veramente... sì, ma proprio un bel caratterino, e tra l'altro mi colpiva molto il fatto che ha completamente rinunciato a quella che è la diplomazia classica dell'esponente politico, decidendo, come si dice, di prenderla di petto, e ha scritto un post di risposta su Facebook a una mamma che le diceva, le esprimeva la sua contrarietà a questa legge, chiedendo per favore intervenga, e lei, devo dire, ha usato delle parole... Che ha scritto lei? Niente, io ho risposto alla mamma che mi chiedeva la sospensione del decreto Lorenzin con un'ordinanza. Sì. A parte l'ignoranza le istituzioni si muovono, cioè che un sindaco vada contro una legge dello Stato è un po' difficile, ma non è questione di caratterino, è che la signora che si firmava come genitore consapevole e come lei è quella che vuole rivendica la libertà di scelta, le ho risposto dicendo quello che pensavo, cioè che ma ce lo dica, e che era una posizione la sua veramente criminale, nel senso che la lettera iniziava appunto dicendo: secondo me lei è il segno del decadimento della nostra società. Perché No, ma ha scritto una cosa: per essere genitore, ha scritto: non basta la capacità fisica di mettere in pratica un buon rapporto sessuale completo, sulla qualcosa immodestamente sento di poter concorrere in futuro al premio di padre dell'anno. Già qui spicca la personalità del sindaco. Sì. Ma per fare il genitore bisogna essere genitori dentro. Questo ha scritto. Ma le ha dato un po' dell'atteggiamento criminale. Questo non giustifica le minacce di morte. Assolutamente no, no, si sono risentiti. Allora, io non sono uno scienziato, sono solo un sindaco. Neanche Veronica Gentili. Esatto, però cioè, chiariamo le cose, cioè, nel senso che c'è la scienza non è democratica, come dice il dottor Burioni, quindi a un certo punto, se andiamo avanti così, io scrivevo nel mio post stanotte, fra qualche anno toglieremo anche i semafori, perché la libertà di scelta è che nessuno mi può imporre di fermarmi al rosso, perché sicuramente ci sarà un complotto planetario per la produzione delle lampadine. E si arriverà all'anarchia. Però fermatevi un attimo, perché dobbiamo andare alla pubblicità, poi rientriamo con intanto Nicola Pomaro, che abbiamo recuperato, il sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti. Il sindaco di Uboldo sia un personaggio. Quando c'era la neve in inverno, fece un decalogo rivolto ai cittadini, che suonava tipo così: cari cittadini, le regole per la neve. C'è la neve, state a casa. Se ci sono 20 centimetri di neve, non rompete le palle al sindaco. Se ci sono, caro pensionato, statene a casa invece di cadere se c'è la neve. Ecco, il sindaco di Uboldo è questo genere. Scusami, Alessandro, però... so che dobbiamo interromperci un attimo, ma la fine della mail è: non le porgo i miei più cordiali saluti, perché anche io applico la libertà di scelta e la faccio applicare a lei. Scelga lei liberamente il luogo dove vorrei mandarla in questo momento, e che le assicuro potrà individuare liberamente in una sola incisiva parola. Il sindaco di Uboldo. Non le manda a dire. Tra poco. I funamboli. Io volevo chiedere solamente se sapete che dopo il vaccino, dopo che si è vaccinati contro il morbillo, quindi il trivalente morbillo, parotite e rosolia, ci sono 6 settimane in cui i bambini devono stare a casa da scuola, non possono entrare in ospedale pediatrici, quindi non possono stare vicino a bambini immunodepressi. Allora, i nostri ascoltatori, siamo qui con il sindaco di Uboldo, Lorenzo Guzzetti. Abbiamo recuperato Nicola Pomaro, che ringraziamo di essere ancora qua. Pomaro, buongiorno, eccomi tra un attimo, torniamo da lei. Però c'è un ascoltatore che ci ha chiamato, l'800240024, è Francesco da Roma. Buongiorno, Francesco. Sì, buongiorno. Io ho un bambino di 2 anni e mezzo, sì. E il bambino, dopo un round di vaccini, ha avuto delle febbre molto alte, sono adesso è normale, però per circa 5 mesi continuava a sbattere fortemente la testa contro la spalliera del letto, qualsiasi superficie dura. Alcuni pediatri un po' più aperti alla mentalità, della mentalità di altri pediatri, ci hanno detto potrebbe essere una conseguenza di una reazione ad un vaccino. Perché allora, lei dice, Francesco, alcuni vede che già mettere alcuni pediatri più aperti, come dire, cioè ci sono quelli che negano qualcuno, dicono, e quelli che, guardi, e quelli che le dicono la verità. No, guardi, io ho altre 2 figlie e le ho vaccinate. E non ci sono stati effetti collaterali. E non ci sono stati effetti, ma è quella la cosa che mi è venuto il dubbio. Perché? Perché il patrimonio genetico di ogni bambino è diverso dall'altro. Allora, se io o lei andiamo a fare un'operazione, ci chiedono a che cosa è allergico, ci fanno una serie di test. Ma guarda che, Francesco, infatti il problema è questo, cioè pensa, il vaccino è un farmaco e i farmaci, tutti i farmaci hanno dei possibili effetti collaterali, ma tutti, con la differenza che la tachipirina ha un effetto collaterale di rischio molto più alto, attenzione, le sto dicendo, molto più alto dei vaccini. Questo, se lei parla con qualsiasi medico, le dirà questo, statistiche alla mano, caro Francesco. Dopodiché il vaccino è un farmaco, quindi... Ma la tachipirina a me non me la obbligano. Allora, se c'è un minimo. E certo, ma sa perché? Perché la tachipirina non salva la salute pubblica. No, ma è perché la tachipirina viene data unicamente a suo figlio, non viene data anche nell'ottica. Cioè, c'è anche il discorso che una collettività senza regole non riesce a stare in piedi, poi. Perché no? Se lei ha mal di testa e vuol prendersi la tachipirina, è libero di prendersela. Se non vuol prendersela, non vuol prendersela. Ma se lei non vaccina il figlio, non la prende, mette in qualche modo in pericolo anche tutti quelli che sono in situazioni di disagio e di difficoltà. Tipo la figlia di Nicola Pomaro, cioè, nel senso, vuol rispondere lei, Pomaro, all'ascoltatore che ha posto legittimamente anche, cosa vuol dire non vaccinare? Dice Francesco da Roma, nessuno mi dovrebbe obbligare. Pomaro, lei che risponde? Allora, sul discorso degli effetti dei vaccini io lascio parlare i medici. Sì. Perché quello che succede dopo la vaccinazione non è detto che sia causato dalla vaccinazione. Questa, tra l'altro esatto. Questa c'è una conseguenzialità temporale diversa da una conseguenzialità causa-effetto. Questo lo si dovrebbe capire con una questione di logica basilare. Perché si va avanti a vaccinare bambini per anni, perché devono fare vari vaccini, eccetera. Quindi è chiaro che tutto quello che succede in quel periodo lì lungo, che possono essere cose che comunque sarebbero venute fuori, non è causato dai vaccini, è semplicemente correlazione temporale. Ma per esempio, poi, Nicola, se lei dovesse dire qualcosa ai genitori che non vogliono vaccinare i figli, qualcosa proprio da un punto di vista da padre a padre, da padre a madre, cioè da un punto di vista umano, cosa direbbe? È quello che cercavo di dire prima, cioè queste sono paure più o meno fondate, più o meno razionali, eccetera. Però le dico, mia figlia fino a 2 anni fa stava benissimo, era una bambina perfettamente sana. Mm-hmm. Poi è arrivata questa malattia. Questo può succedere a tutti. Certo. Come può succedere a una persona anziana di avere dei problemi immunitari? Come può succedere a una persona adulta di fare la chemioterapia ed essere poi immunodepressa? Fare in modo che i virus pericolosi non circolino, perché le vaccinazioni fanno in modo che i virus non circolino nella comunità, è una protezione per tutti. Perché, infatti, questa è la differenza con la tachipirina. La cosiddetta immunità di gregge, no? Sì, a tutti può capitare di avere dei problemi, di essere più fragili in certi momenti della vita o di avere dei figli, eccetera, che hanno questi problemi. Quindi è un po' come tenere l'acqua potabile, cioè è creare una condizione di igiene, per la collettività, insomma, ma questo, questo è chiaro. Che poi è una protezione per tutti. Io vorrei tornare per un attimo dal sindaco, il nostro sindaco Lorenzo Guzzetti. Sì. Noi sindaco l'abbiamo messa anche un po' sul ridere sulla questione del decalogo per le nevi, che era un'altra vicenda. Sa, qua arrivano messaggi su WhatsApp da sindaco Liuboldo, presidente. C'è anche chi la vuole fare papa già. Chi dice dico. Invece, ma siamo assurdi. Come ci si fa a rivolgere a un cittadino? Così c'è anche chi dice questo, cioè lei è sempre il primo cittadino, non dovrebbe usare questi toni, come dire, così. Guardi, io credo proprio che il problema oggi della politica sia che ormai politically correct e tutta questa roba ha stancato. La roba, infatti lei dice anche questo, dice di tutti quelli che non dicono la loro opinione in maniera chiara, lei non ne può più questa ipocrisia. Non ne posso più, cioè, anche il signore che ha appena telefonato, non so se ha mai fatto un giro reparto oncoematologico pediatrico, perché allora magari si rende conto perché deve fare i vaccini alla figlia, che non è come prendere la tachipirina. Io se prendo la tachipirina sto male, io su di me, e poi sento queste robe, cioè qui stiamo perdendo completamente l'orientamento del fatto che viviamo insieme, dobbiamo darci delle regole comuni. Mettiamo però in chiaro una cosa, lei sindaco ha anche proposto, se non sbaglio, una cosa molto forte, cioè dice io toglierei la patria potestà a un genitore. Ma è un discorso istituzionale, cioè tu non sei capace di fare il genitore, io devo prendermi cura di tuo figlio, perché questa è la base. Cioè, oltretutto quello che dice il sindaco non è assolutamente peregrino, perché inizialmente si parlò di questo nella proposta di legge, poi chiaramente si fece retromarcia. Infatti, dato che poi in Parlamento, come dicevate prima, abbiamo gente che fa il distinguo sulla salute pubblica, io sono di destra e sono di sinistra, succedono queste cose, cioè il governatore Zaia, per esempio, se gli dà fastidio fare l'istituzione e vuole fare la guerra alle istituzioni, non capisco perché non prende e non fa altro, cioè nel senso fa la sua battaglia, che è giusta, lecita, culturale, però non come istituzione mettendo in discussione una legge dello Stato per la salute pubblica. A proposito, proposito di Zaia, visto che dobbiamo concludere, ma signor Pomaro, dalla regione Veneto, noi l'altra volta ospitammo poi anche l'assessore che disse, beh, noi, come dire, accogliamo, ascoltiamo la vicenda personale, ma come regione andiamo avanti con le nostre convinzioni. Ha mai avuto una qualche tipo di risposta? Ma no, assolutamente niente. Niente. Ma guardi, adesso io non voglio sembrare troppo drastico, ma io non sono assolutamente convinto che la regione Veneto, nelle persone di Zaia, eccetera, abbiano a cuore i bambini fragili, eccetera. Questa è una lotta puramente politica ed è scandaloso che vengano messi in mezzo i bambini su questo. Ecco. Lei dice un po' è la politica che prende piede anche su questo tema così delicato. Io volevo porre un ultimo spunto sia al signor Pomaro che lasciarlo in generale, perché chiaramente uno dice avete parlato, avete fatto sentire una campana, poi abbiamo sentito anche l'ascoltatore. Uno spunto di riflessione può essere quello di Paolo Maddalena, il presidente emerito della Consulta, che si definisce contrario alla legge perché tra le varie motivazioni sostiene che sottrae ai genitori la capacità, la valutazione sui rischi, cioè la possibilità di valutare autonomamente. Questo può essere uno degli spunti di riflessione in generale sulla tematica. Questo chiaramente senza prendere posizione. Vabbè, ovviamente poi i genitori non sono medici. Chiaro? I genitori non sono medici, quindi non possono avere gli strumenti per valutare questo tipo di rischi. Sì. Quindi come si fa? Allora un genitore dovrebbe anche decidere se mettere la cintura di sicurezza o no sul figlio in base a come gli gira, o se mette il casco quando va in motorino, cioè che discorsi sono? Ci sono valutazioni che sono lasciate a chi è esperto. In ogni caso il tema il tema è sempre molto caldo e le scuole stanno iniziando, sapete che c'è anche tutta la polemica sul mettersi in regola, è un tema che probabilmente affronteremo, credo, con l'apertura delle scuole, cara Veronica, che ne vedremo anche di vicende di cronaca. Le regioni stanno facendo ognuna per conto proprio in termini di organizzazione, e quindi anche quello sta creando dei problemi. Queste sono l'eredità del titolo quinto. È arrivata la grande accusa, come solito. Beh, un po' in ritardo, devo dire, siete un po' rallentati. Siete la radio di Confindustria, le aziende farmaceutiche, eccetera. Ovviamente è notorio che le aziende farmaceutiche avrebbero più convenienza a far ammalare la gente, visto che coi farmaci si guadagna di più piuttosto che immunizzarle e prevenirle le malattie. Però a parte questo, dai, andiamo al traffico, perché qua si aggira il funambolo in arrivo. A Milan io voglio sentire il traffico. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova, vi presenta i funamboli. Allora, il nostro amico Remo, non so se te lo ricordi, ha detto che ci sta guardando su Facebook e che siamo bellissimi. Si riferiva probabilmente a te e a Manera, però insomma, eccoci qua. Siamo alle 9:49 minuti. Buongiorno, caro Leonardo, buongiorno. Buongiorno a tutti i funamboli. Io vorrei cominciare facendo un appello, se posso, a mio padre, papà Luciano. Ottimo. Io ho 50 anni, ma vorrei che mi inviasse qualche soldo. Povero papà Luciano. Si sa che i soldi non bastano mai, quindi papà Luciano, se stai ascoltando, fammi un bonifico di quello che vuoi tu, io accolgo sempre volentieri, perché poi io a mio volta ho un figlio da mantenere, gli dovrò dare dei soldi per tutta la vita e i padri devono sapere che dovranno mantenere i figli per sempre. Ma quanto chiedi al povero papà Luciano? Povero non nel senso ricco papà Luciano a questo punto. Ma no, mi accontenterei di 300 euro al mese, 400, per poter collaborare le spese familiari. Vabbè, ma tutto sommato è una pretesa modesta. Sì, dai. Papà Luciano, mandamele subito, manda qualcosa anche Alessandro Milan. Papà Luciano, procediamo a dare l'IBAN su cui provvede. Grazie papà. E poi invece, riguardo ai vaccini, condivido quello che dicevi tu, ogni medicinale ha costi e benefici, si dicono. Il costo è il possibile effetto collaterale, il beneficio a volte è quello proprio di salvarti la vita. Io ricordo quando facevo il liceo, avevo il mio insegnante di italiano, di lettere, che aveva avuto la poliomielite da bambino e lo vedevo sempre entrare la mattina con le stampelle perché aveva perso l'uso delle gambe. Io ho sempre pensato che se lui allora avesse avuto la possibilità di vaccinarsi avrebbe avuto una vita completamente diversa. Io perciò ringrazierò per sempre i vaccini che hanno salvato la vita di tante persone. Però poi, dall'altro lato, capisco anche le preoccupazioni dei genitori, perché i genitori normali come me non sono obbligati a essere scienziati, a sapere se quello che si scrive sugli effetti collaterali è vero oppure no, oppure sono bufole. Allora subentra la paura, il dubbio, perché quando sei genitore, soprattutto di un bambino piccolo, e io lo dico da padre, hai paura che possa capitargli qualcosa che gli rovini la vita, perché ai bambini piccoli può sempre capitare di tutto, soprattutto quando sono piccoli. Per esempio, quando hanno appena imparato a camminare cominciano a vagare per strada come trottoli ubriache, cadono in continuazione. 9 volte su 10 non si fanno niente, 1 volta su 10 però li vedi che sono caduti male e senti il tonfo. Tum. E la tua preoccupazione, genitore, non è il tonfo, ma è quell'attimo di 2 secondi che c'è tra il tonfo e la reazione del bambino. Attimo in cui il bambino deve realizzare cosa si è fatto, e attimo in cui tu, genitore, il tuo colore di genitore passa dal rosa normale e perdi dalle 6.000 alle 10.000 grammature di colore. Tu pensi, da domani lo porto in giro col guinzaglio, era meglio quando stava sul passeggino, lo tengo chiuso in una stanza di gomma per tutta la vita. E poi, se dopo quell'attimo, dopo il tonfo, il bambino ride, non si è fatto niente. Se piange poco, si è fatto poco. Se urla come il sonoro dell'urlo di Munch, corri al pronto soccorso e per tenerlo tranquillo sei disposto a fare qualsiasi cosa, anche cose che vanno contro la tua morale di padre, per esempio mettergli in cuffia le canzoni di Rovazzi. Ma al pronto soccorso c'è un altro pericolo, che ci sono tanti altri bambini malati pieni di virus, e il virus è subdolo perché ha un bel carattere. Il virus tende a socializzare, non ho mai visto un virus sociopatico. In più il virus crea apposta delle trappole per i bambini. Se al pronto soccorso per bambini c'è qualche giocattolo, il virus va proprio lì, magari depositato da qualche altro bambino. Tuo figlio arriva al pronto soccorso, si precipita verso quei camioncini di plastica tutti colorati e immediatamente socializza col virus bastardo e crea a tuo figlio mal di testa, nevralgie, cefalee, febbre, macchie sulla pelle. E quando il medico non sa che malattia è, dice, beh, sarà la sesta malattia. Malattia mitologica di cui nessuno ha mai capito veramente i sintomi. E poi, quando esci dal pronto soccorso, sei inverno, rischi che tuo figlio prenda la bronchite, allora sei costretto a fargli l'aerosol, magari con qualche goccia di cortisone, ma non troppe gocce, perché il bambino è piccolo e potrebbe essere pericoloso per lui. Io avevo un pediatra più apprensivo di me che ogni 2 ore telefonava a casa per dirmi, il bambino è piccolo, bisogna stare attenti, è piccolo, è piccolo, è piccolo. Alla fine ero io che dovevo calmare il pediatra. Perciò è normale, dico io, che un genitore si preoccupi di quello che può capitare ai figli, ed è normale e giusto che i genitori si preoccupino anche dei possibili effetti collaterali dei vaccini. Solo una cosa io vorrei: che non si diffondessero in modo consapevole bufale o allarmismi ingiustificati sui vaccini riguardo alla salute dei bambini, perché credo che siano delle cose, delle porcate più disgustose che si possano fare. Invece, in fondo, se un bambino ha solo qualche linea di febbre, possiamo sempre dire, ma sarà la sesta malattia. La mitologica sesta malattia. Leonardo Valera, il nostro funambolo, è arrivato qui ad allietarci. Tra l'altro, nella seconda ora avremo tante altre cose straordinarie. Il funambolo del giorno. Sapete che continuano a scriverci su Defurbizziamo. Cioè, anzi, lanciamola già. Sta prendendo piede la nostra campagna. Sì, sta prendendo piede perché ci sono gli ascoltatori che ci dicono, ci raccontano, confessano quella volta in cui hanno fatto i furbi, e qui li defurbizziamo, cara. E stiamo facendo in realtà proseliti, spiegando a ognuno tutte le furbizie che ancora non ha fatto e come può ingegnarsi. No, infatti, cioè, effetto collaterale, come nel caso delle medicine, eccolo. Ci accusa qualcuno di istigare alla furbizia. No, è il contrario. L'obiettivo è proprio quello di ridurre il tasso di furbizia nel sangue. Esatto, facendolo come? Facendo raccontare le vostre furbizie e in qualche modo defurbizzandovi, ecco. Ogni 3 mesi si fanno le analisi del sangue per vedere il livello di furbizia. Esatto, ovviamente. Infatti ognuno ha globuli bianchi, rossi e furbi. Comunque, è finita la prima ora dei funamboli. Sì, andiamo al giornale radio, poi rientriamo con il funambolo del giorno, con i defurbizziamoci, con i personaggi di Manera, con la verva di Gentili, con il ciuffo di Milan. No, scusa, con Peter Pescarelli. Con il ciuffo. Di Milan, è una storia, sì, ma secondo me il ciuffo di Milan è la sesta malattia, Leo. Io ho questa sensazione. Sei veramente una disgraziata. Un giorno iniziamo a fare queste cose molto sessiste sul tuo abbigliamento, iniziamo a discutere. Sai, io che non l'abbiamo mai fatto, tra l'altro. Esatto. Finora ci siamo comportati sul mio benissimo. Io cerco di rimanere, capito, sobria, perché vedo te e cerco di compensare. Vedi come finora, nella prima settimana siamo stati... È anche ospitalità, sono straniera, fuori sede, insomma, esatto, per quello che siete cordiali. Quello. Giornale radio, state con... Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I funamboli. La leggenda metropolitana è una narrazione che nasce da una discussione collettiva. Il suo contenuto è sempre sorprendente, inusuale. Trae spunto di solito dalle nostre paure, angosce o aspirazioni. Il messaggio trasmesso di norma è conservatore e contiene una morale. Non sono quasi mai rintracciabili la fonte primaria né il protagonista della storia. Può durare per breve tempo, ma di solito vive a lungo, trasformandosi attraverso numerose varianti collocate in luoghi geografici anche diversi. Allora, il brano che Veronica ha letto è il brano da un libro Storie di ordinaria falsità. Bur Editore, è scritto da Paolo Toselli. In questo libro si raccolgono tutte le leggende metropolitane. Chi non ha una leggenda metropolitana con cui è cresciuto? Tu, Leonardo, ne hai una? Ero adolescente, una leggenda metropolitana che mi ha condizionato la vita. Ah. Girava questa storia di un uomo che conosce una donna, la sera stessa fanno l'amore, la mattina dopo lui, l'uomo, si alza, si sveglia, va in bagno e vede scritto con il rossetto sullo specchio: benvenuto nel favoloso mondo dell'AIDS. Questa cosa mi ha condizionato la vita per anni, perché sono stato terrorizzato e secondo me è stato in qualche modo anche un grande spot per l'utilizzo dei profilattici. Ma io ricordo perfettamente questa leggenda. Sì, è questa leggenda metropolitana, perché tale è una leggenda metropolitana, e oggi ce le racconta il funambolo del giorno, che è Paolo Toselli, che salutiamo. Buongiorno Toselli e benvenuto. Buongiorno a voi. Storie di ordinaria falsità è il suo libro, per l'appunto. Leggende, esiste questa leggenda metropolitana che ricordava Leonardo Manera? Certamente, ed è diffuso in tutto il mondo. Ah, cioè non solo in Italia? La vedi? No, ovunque. Ovunque nel mondo. Ma come nasce una leggenda metropolitana? Lo dice, non si sa. In genere è difficile capirlo. Non si sa, è un po' come le barzellette alla fine dei conti, no? Uh-huh. Non nasce da una persona, sono stati fatti anche degli studi di creazione a tavolino di certe storie o altro, ma è difficile che poi riescano ad avere un impatto tale da essere diffuse per tanto tempo e in località così diverse. Quindi quando ci sono delle problematiche o per... è un po' una forma di esorcismo. Una forma di esorcismo. Paure. Allora, il nostro funambolo... E nascono queste storie. Certo, il nostro funambolo Paolo Toselli non fa questo di lavoro, ma comunque da anni è un raccoglitore di leggende metropolitane, conosce tantissime. Ma Paolo, quindi per lei è stato un hobby? Cioè lei ha detto, adesso io ho tutto il mio tempo libero e ce ne vuole tanto, perché con la quantità di leggende metropolitane che ci sono, cercherò di smentire pedissequamente tutte le leggende metropolitane. Ma diciamo che proprio in questi giorni cadono i 27 anni dalla fondazione del centro raccolta voce leggende contemporanee, sì, insieme ad alcuni amici appunto abbiamo fondato. Più che smentire, l'obiettivo era di capire cosa c'è dietro, perché nascono e come si diffondono. Beh, questo è interessante. Intanto molti ci scriveranno la propria leggenda metropolitana al 349-238-6666. Lei, Toselli, ne ha una con cui è cresciuto? Cioè una che ricorda proprio? Ma diciamo di sì. Io ancora quando non mi occupavo di queste cose mi ricordo che in Liguria mi raccontarono, credetti vera all'epoca appunto, perché questa è la forza della leggenda metropolitana, quella del durante un incendio un Canadair spegne appunto, interviene. E poi i pompieri, appena questo incendio è spento, in un bosco trovano un sommozzatore appeso ad un albero, naturalmente carbonizzato anche lui e quant'altro. Questa, che anche questa c'è un po' in tutto il mondo, non solo in Italia, ma negli Stati Uniti, ovunque. È straordinario. È un'altra classica leggenda metropolitana che tra l'altro ritroviamo anche citata in un famoso film di Pantozzi. Possiamo dire che è vero, leggende. Possiamo dire forse che chi diffonde queste leggende sia una specie di moderno cantastorio, no? Mi sembra che vada un po' in quella direzione. Sì, perché sono comunque è folklore moderno. È la tradizione orale cosiddetta, che un po' si passa di voce in voce, un po' tipo il gioco del telefono, e alla fine diventano delle storie leggenda. Anche articolate. Ma certo, io ne ricordo una quando ero giovane del motociclista che va di fronte a lui un camion perde una lamiera, questa lamiera gli taglia la testa, ma lui per la tensione guida per tutta la città circa un chilometro con la testa, e tutta la gente vede questo motociclista con la testa tagliata che questa mi manca guida. No, è così. Ma Toselli, raccontò mio cugino Toselli, ma poi c'è qualcuno che effettivamente ci crede? Beh, diciamo che tutti noi crediamo nelle nostre leggende, perché io mi piace definirle come i bambini hanno bisogno delle favole per crescere, noi abbiamo bisogno delle favole per sopravvivere. E sì, le leggende metropolitane sono le nostre favole, sono favole per adulti. Anche, pensavo proprio questo leggendo ieri un po' le righe con cui l'ho introdotta, esattamente questo, cioè quando c'è, ci sono degli elementi per costruire una favola, quindi quando c'è un elemento sorprendente, per esempio qualche cosa di inaspettato, automaticamente ci si tuffa. Mi chiedevo per esempio l'intervento del web, no? Quindi quelle che le leggende metropolitane le possiamo tradurre come fake news, quindi queste cose che girano, le bufale virali, come è intervenuto secondo lei nella diffusione? Cioè, c'è stato un po' il sistema, perché si sta riscontrando che da parecchio difficilmente nascono nuove leggende, ecco, nuove storie strutturate. Adesso circolano fortissimamente diciamo quelle che possono essere definite voci infondate. Le bufale. Ecco, quindi si dice che no, le bufale, esatto, quelle che adesso definiamo fake news, più che perché la leggenda vera e propria è una storia strutturata che appunto ha dei suoi protagonisti, ha un finale sorprendente. Per esempio c'è quella mitica dei segni sui citofoni lasciati in genere dagli zingari, si dice così, per segnalare dove ci sono, dove c'è da rapinare oppure dove c'è... Esatto. E questa è deve aver ossessionato la vita di Milan, glielo dico, ma perché no, è da ieri che ce la racconta con una certa inquietudine. Ma è una delle leggende più diffuse, ma è vera o no? Confermo che tra l'altro questa cosa, pensate che pochi giorni fa io per puro caso ho ritrovato questa cosa dei segni degli zingari in un fumetto intitolato appunto I fumetti di Totò del 1953 con i simboli riprodotti. Ecco, quindi pensate, se dal 1953 o ancora prima, perché questa cosa era già diffusa, queste persone, chiunque ne possa fare uso, continuano a utilizzare quei simboli quando dopo tutto noi sappiamo però vede Toselli, ci scrive Riccardo da Parma, testuale: questa del Canadair quest'anno è successa veramente, il sub fortunatamente non è morto, era pubblicata su tutti i giornali ad agosto. Io non lo so, questo... agosto è il mese dove i giornali non sanno cosa pubblicare. I giornali, non sapendo cosa scrivere, prendono le leggende metropolitane, mettono un po' di make up e via. Infatti, guarda anche questa, Leonardo. Guardate che la vicenda Benvenuto nel mondo delle AIDS è reale. In qualità di medico, ho seguito un caso del genere. Vedi? Ma infatti, la forza delle leggende metropolitane è che sono quasi quasi verosimili. Potrebbero anche essere vere. Sono verosimili, ma poi capita che in qualche caso avvengono veramente. Io vi racconto una cosa che mi è capitata all'inizio degli anni 90. Quando proprio ad agosto lessi sui giornali una notizia, un comunicato stampa che riferiva di un signore che aveva dimenticato la moglie e l'autogrill e se ne era accorto dopo aver percorso 600 chilometri. Questa è successa di recente, l'hanno intervistato tutti anche. Ecco, questa cosa che era una leggenda metropolitana e tuttora una leggenda, all'epoca accadde veramente, ve lo posso assicurare, perché io intervistai tutte le persone coinvolte, compreso un agente della Polstrada che fece una colletta per mettere sul treno. Quindi è successo. Guarda anche questa. C'è quella del motociclista che dopo l'incidente parla con i soccorritori, ma al momento in cui gli sfilano il casco gli si apre in due la testa. Cioè, c'è anche è una variante di quella che hanno raccontato a me, della testa tagliata. Andiamo un attimo al traffico, aspetta Veronica, traffico e poi rientriamo con Paolo Toselli che ce ne deve raccontare altre. Sei in ritardo. Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta I funamboli. Allora, Paolo Toselli, qui stavamo discutendo, perché c'è una leggenda, davvero, davvero... A parte che uno ci scrive, quella della moto è successo anche al mio paese, capito Toselli? Cioè, non l'hanno raccontato, è successo. Perché, o forse succedono, perché a forza di raccontarsi non le fa succedere, sì. No, c'è la storia celeberrima degli amanti incastrati e portati così al pronto soccorso. Sì, è successo a me. In che senso, Leonardo? A questo punto. E qui potremmo chiudere. Ma, in letteratura, diciamo, scientifica è citato questa tipologia come penis cattivus, c'è pochissimo di scritto, in effetti è un fenomeno che potrebbe capitare ma è rarissimo. Certo che ormai tutti i pronto soccorsi d'Italia, ma non solo, sono pieni di queste storie, quindi in realtà anche se capita una volta, le storie vengono moltiplicate, ce ne sono ormai a migliaia, quindi è la vera e propria leggenda metropolitana. Paolo, ma uno degli proprio la morale. Ecco, questo volevo dirle. Uno degli aspetti interessanti è che in realtà molte di queste leggende nascono con l'idea di dimostrare, hanno una morale e vogliono dimostrare una tesi, cioè c'è qualche cosa al fondo. Esatto, esatto, anche perché proprio questa qui degli amanti incastrati, guarda caso, capita sempre tra amanti, non tra coppie di doppie sposate, tra marito e moglie. Quindi stai attento. Quindi essere colti sul fatto, no? E posti al pubblico ludibrio fa sì che raccontandola così qualcuno cerca, sta più attento. La morale della favola è: l'adulterio fa male alla salute. Sempre. Esatto, è una cosa certe che non volte si fa. Addirittura chi interviene per il disincastro è magari il marito, certo, che arriva lì. Ovvio, ovvio. Ma un altro degli aspetti interessanti che volevo chiederle è quello che si chiama in inglese adesso il debunking, cioè il tentativo di smentire quelle che sono le leggende metropolitane, le bufale. Molto spesso ottiene un effetto controproducente, sì, cioè la gente confermo. Non vuole sentire che non è vero. No, perché la gente gli piacciono le favole da adulti. Perché queste storie si conformano alle nostre necessità, no? Quindi per poter smentire una di queste bufale leggende bisogna creare una struttura narrativa tale che riesca a sostituire questa credenza, no? Questa accettazione, ed è estremamente difficile. Spesso e volentieri vengono rafforzate, come dire, ecco, vedete che volete dire che non è vero, perché è perché proprio vero. Perché è vero, esatto. Beh, c'è una che ci racconta, non so se è diffusa, un ascoltatore, una bellissima, il milanese che va in vacanza in meridione con la famiglia e la suocera, in vacanza muore la suocera, per risparmiare portano il corpo della suocera sul canotto, sul tetto della macchina, che ovviamente viene rubato all'autogrill. Esatto, esatto. Questa è una sceneggiatura, però. Addirittura risale anche alla fine della seconda guerra mondiale. Cioè, capite? È tutto vero. I nostri ascoltatori raccontano cose verissime. Beh, arrivano dalla tradizione orale, e forse chiaro. Questa cosa sta finendo un po' anche per i social, no? Dove si vedono le fake news, che sono titoli fondamentalmente. Sono titoli, sono cose diverse, insomma, non sono bei racconti come questi. Oltretutto esistono le cosiddette camere d'eco, che in qualche modo, sulla rete in particolar modo, mano a mano che una notizia viene raccontata, si tende a confermarla e si creano dei veri e propri gruppi che confermano quella notizia, portando argomenti a favore per di quella esempio, tesi. Per esempio, ma quale esatto. leggenda? L'incastro è successo all'Iper di Brembate, ci scrive l'ascoltatore. Guardate le cronache, informatevi. L'incastro. Paolo Toselli, noi la ringraziamo perché ci ha raccontato in maniera simpatica tutte queste leggende metropolitane. Potremmo andare avanti ore con le leggende metropolitane. Però sono un po' la nostra coperta di Linus, queste leggende metropolitane. Sì, come gli zingari che rapiscono i bambini biondi, questo è un classico. Anche non biondi forse. No, io biondi proprio la paura. Biondi adesso. C'è un bambino biondo, stai attento, non mettere... Giustamente uno mi chiede, ma incastrati in cosa? Vabbè, adesso non entriamo troppo nello specifico. Ecco, lasciamo un po' di fantasia, dopo immaginazione. Facciamo uno spin-off su incastrati come e cosa. Però no, non ve lo faremo vedere in diretta Facebook. Non in questo orario, no. No, decisamente no, neanche in altri orari. Anche perché se ora vedeste il look del signore qui accanto a me, del buon vecchio Manera, vi rendereste conto del perché è impossibile. Vabbè, dai. Buongiorno a tutti. Allora, dovete tutti italiani vaccinare vostri figli, vi prego. Oh là là. Anche la nostra Marie-Françoise da Monte Carlo ci segue sempre, invita a vaccinare tutti i figli, va bene. Allora, noi qua abbiamo un personaggio che ci è venuto a trovare, che è il mago Dario, che... Io è Mago Dario. Sì, io faccio dei oroscopi. Faccio oroscopi e poi anche faccio dei prevedo futuro. Ah, prima faccio oroscopo. Tu, Alessandro Milan, che segno è? Sagittario. Non interessa Sagittario, solite cose. Vabbè. Tu, Veronica Gentile, che segno è? Cancro. Niente, anche cancro, solite cose di cancro che dice sempre. A me interessa questa di settimana Capricorno. Ah. Io per Capricorno prevedo problemi con vicini di casa. Ah. Perché Capricorno, se tu domenica mattina ti metti a mettere tasselli nel muro, a svegliare tutto vicinato che sta dormendo alle 7 di mattina, Capricorno, è normale che tu ha problemi con vicini di casa, Capricorno. Capricorno. No, che ti metti con tutti i problemi con vicinato, non si fanno buchi nel muro a 7 di mattina, Capricorno. Attento Capricorno, schifoso Capricorno. No. Altrimenti Capricorno. No, Dario. Io altrimenti ti predico anche futuro, altrimenti io ti dico Capricorno che settimana prossima entra Mercurio in tuo segno zodiacale e Mercurio quando vuole rompe maroni, Capricorno schifoso, no, maledetto, no, Capricorno. Ma noi nostri ascoltatori Capricorno. Ascoltatori Capricorno. A mettere tasselli nel muro a 7 di mattina, Capricorno. Sì, ho capito. Con Mercurio in opposizione, schifoso Capricorno, io dico che mentre tu stai mangiando risotto ti si rompe dente per risotto e risotto non è neanche buono, Capricorno. Allora tu vai da dentista per farti sistemare dente, ma quel giorno dentista è cane e con trapano ti trapano, ti fa buco fino dentro a naso, Capricorno. Povero Capricorno! Dura la vita del Capricorno. Allora tu per sistemare naso devi andare a farti operare da otorino laringoiatra, prendere tanti antibiotici, ti fanno venire mal di testa, nevralgie, cefalee, sindrome di Steven Johnson, necrosi epatocellulare. Capricorno, ti capita di tutto, tutta situazione di causa depressione, Capricorno, perciò non vai più d'accordo con tua moglie, Capricorno schifoso. Per cercare di recuperare, tu cerchi di prendere pillola blu per fare amore con tua moglie, ma quel giorno tua moglie non può fare amore perché ha sue cose, tu resti vasodilattato per dei giorni interi, Capricorno. Ma questa è una maledizione, non è un oroscopo. Resti vasodilattato per giorni interi, ma non puoi fare amore con tua moglie che alla fine ti lascia, si separa, tu devi dare tutto stipendio a lei, finisce a dormire in macchina, così almeno non rompi più maroni a piantare tasselli con trapano in muro domenica mattina, Capricorno schifoso. Chiamare Branco, questo è previsione di Mago Dario. Oh, Mago Dario, vorrei sapere di che segno è il Mago Dario. Capricorno. Ariete. Io credo che gli amici del Capricorno non abbiano mai avuto tanta attenzione in un oroscopo in assoluto. No, esatto. Schifoso Capricorno. Salutiamo con grande affetto tutti gli amici del Capricorno. Capricorno, segno magnifico, segno che porta prosperità, segno che porta fortune, segno che porta... meno male che c'è Milan, capito? Poi ti dicono che fai il pompiere, Il nostro Mago Dario, vabbè. Bruno da Firenze, ho paura a chiedere il suo segno zodiacale. Bruno, buongiorno, di che segno è? Ce lo vuole dire? No, di Firenze, da Fiuggi. Ah, da Fiuggi, mi hanno scritto da Firenze. Che senta, no, io sono del cancro, perciò... No, temevo, perché se lei avesse detto il Capricorno... Se cominciavamo con un Capricorno... Volevo quasi dirlo per scherzo, poi dico è meglio che evitiamo di creare un caso diplomatico. Volevo esprimere un pensiero riguardo quel signore che è stato denunciato dalla figlia andava andando a scuola e compagnia. Telefono perché mi sembra aver capito che avete portato, io ho vissuto all'estero per molti anni. Sì. E diciamo che per quello che ho capito date anche ragione alla figlia, ma invece in Inghilterra specialmente non diamo ragione alla figlia. Ironizziamo. Vabbè. Per non dire che ovviamente è una sentenza surreale. Secondo me il padre può anche diciamo andare già alla scuola e farla uscire fuori dalla scuola, perché lei è fannullona, non vuole studiare. A parte questo, in Inghilterra lo fanno proprio l'università stessa. Ma capisce che c'è una sentenza con tanto di appello, quindi del tribunale, che lo obbliga a darle. Appunto, io vorrei conoscere anche questo avvocato che è riuscito ad ottenere questo, perché quello anch'io lo vorrei conoscere. Io se fossi il padre di questa ragazza, in Inghilterra funziona, innanzi lei lui va al campus e la tirano fuori già le scuole se non dà gli esami periodicamente, normale. E poi dopo lui, una volta che l'ha tirata fuori dalle scuole per venire a studiare, gli fa pagare anche il boarding a casa, che è una cosa naturale all'estero per i figli oltre un'età avanzata e all'università, che lavorano pagano il boarding. In Italia invece c'è proprio... Beh, però io credo che proprio il diritto di famiglia, mi sembra che sostenga l'obbligo da parte dei genitori, sì, di contare. Ma infatti posso esprimere, lei ha fatto una puntualizzazione molto giusta, e difatti è proprio questo che rovina il futuro dei giovani italiani, perché loro si fanno forza di questa cosa. È quello che infatti ha stabilito il tribunale. I giovani che passano dei 30, 25, 30 anni dentro casa dalla mattina alla sera non hanno motivazioni, ma solo qui in Italia. Io ho vissuto all'estero molti anni, maggiormente in Inghilterra. Non succede, sono più motivati. Difatti questa puntualizzazione che ha fatto lei rovina proprio il futuro anche dei giovani nei confronti degli anziani come me, che ho 70 cioè diventano anni. Dei bamboccioni, dice. Ma poi diventano anche arroganti, non sanno tutto loro. Questo avvocato non solo ha rovinato il rapporto del padre, però ha fatto il suo lavoro, come dire, si è appunto questo, gli avvocati fanno questo, anzi è un numero uno perché è riuscito a farlo, ma solo in Italia. Pensi caro Bruno, che questo avvocato aveva chiesto al giudice dice 2500 euro al mese, cioè lo stipendio di un ottimo stipendio. L'avvocato fa il suo mestiere, chiaramente. È riuscito a spuntarne un migliaio circa tra una roba. Mia figlia è nata in Inghilterra e se non era brava a scuola la tiravano fuori proprio loro, se non dava gli esami. Ma anche qui diciamo non facendo gli esami rimane al palo questa ragazza, però chiede i soldi a papà. C'è un sistema diverso, perché se lo studente ha bisogno chiede i soldi alla banca, free interest, non c'è esente da interessi. Perciò i genitori non e poi loro lo ripagano dopo due anni che stanno al lavoro, però devono studiare, è un sistema diverso. Bruno da Fiuggi, la ringraziamo per questo suo intervento. La buona giornata, grazie. Allora dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ma non abbiamo mica finito coi funamboli, perché abbiamo tra poco la campagna defurbizziamoci. Oggi abbiamo una storia fantastica, dovete scriverci, raccontare quella volta in cui avete fatto una furbizia al 349-238-6666. Se ci mandate in WhatsApp anche in audio ci spiegate. Comunque dobbiamo documentarci su l'età, fino a quale età bisogna essere mantenuti per forza. Se c'è un'età, io non lo so. Ma credo che... Secondo me non c'è. Non c'è un'età. Quando il figlio è autosufficiente, sì. Esatto. Quindi questo è veramente pericoloso, ve lo dico, ma proprio molto pericoloso. 26 anni sono tanti, sei una donna, 26 anni. 6 anni sono tanti. Sì. Scriveteci anche a funamboli@radio24.it. Tra poco ripartiamo da Defurbizziamoci, altre magie qui. I funamboli. Allora signori, sono le 10:36 minuti, cara Veronica Gentili, caro Leonardo Manera, qui siamo nell'ultima fase dei funamboli, in diretta fino alle 11. Cioè quando sei sul finale della fune stai per arrivare dall'altro lato. Vedi il traguardo e non puoi più tornare indietro. No. Però non è ancora arrivato il traguardo. Quindi, è il momento giusto per cadere. Eccoci qua. Infatti quello dice, è il momento in cui prestare maggiore attenzione a mettere il piede uno dietro l'altro sul filo per restare in equilibrio sempre, com'è questo nostro paese. Che è in equilibrio non cade mai. Però prima Bruno da Fiuggi ci ha raccontato per esempio che all'estero c'è una storia ben diversa nel modo in cui si approcciano i giovani allo studio, nel modo in cui vengono anche responsabilizzati forse allo studio, all'importanza di dire o studi o fai qualcos'altro nella vita, no? Ma poi questa cosa è strana, perché credo che alla fine anche un ragazzo, io sono andato a vivere da solo a 19 anni, penso che sia una soddisfazione anche per chi ha quell'età, no? Trovarsi una propria dimensione facendo anche dei lavoretti in qualche modo alternativi per mantenersi agli studi. Diciamo anche, spezziamo anche una lancia a favore di tutti quelli che invece non lo fanno perché non ci riescono e perché il lavoro non lo trovano, e torniamo di qui sopra senza chiedere il contentino a mamma e papà per comprarsi le spesucce, ma che non ce la fanno perché... Cara Veronica, prima un ascoltatore da Napoli ha scritto proprio questa storia di questa ragazza che a 26 anni denuncia il padre perché vuole la paghetta, è un oltraggio verso mio figlio che avrà mandato 5.000 curriculum a 20 anni, ha voglia di lavorare e non trova uno straccio di lavoro se non lavori come dire o precari o lavori non pagati in modo da potergli garantire una sussistenza. Questo è. Comunque, anche questo. Cari amici, sapete che noi qui abbiamo una nostra campagna che lanciamo, che è quella di volervi defurbizzare. Qual è lo spirito di questa campagna, Ale? Perché altrimenti dicono volete incitare proprio il contrario, non vogliamo incitare a fare furbizie, vogliamo che voi raccontiate quella volta in cui siete stati furbi, in modo che un pochino proviate anche un po' deve essere il principio del momento detox, cioè una volta che voi raccontate la furbizia, l'avete detto, ormai è fatta, inizia un circolo virtuoso da cui tutte le volte che potreste commettere un'azione furba dite: ma no, io non voglio essere così, non voglio essere come gli altri, essere proprio il classico luogo comune dell'italiano all'estero. E quindi noi poco alla volta, giorno dopo giorno, puntata dopo puntata, arriveremo a defurbizzare tutta l'Italia. Poi proveremo con la Svizzera, poi la Francia, la Spagna, la Germania. Diventeremo quasi svizzeri, diranno: mamma mia, gli italiani, ma che pedanteria nel rispetto delle regole. Già ci abbiamo la momento Fusconi. Detox è bellissimo, sì. Solo una donna poteva dire il momento detox. E, e passavano immagini di centrifughe, estratti, frullati. Esatto. Signori, è il momento giusto. Defurbizziamoci. Oggi ci ha scritto, perché questo è il modo migliore per ingaggiarci in questa rubrica, scrivendoci via mail a funamboli@radio24.it oppure scrivendoci anche via WhatsApp 349-238-6666, anche in audio, raccontate la vostra furbata. Oggi abbiamo Paolo da Milano che ci ha scritto. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno, sono Fabio da Cireale. No, più che altro perché devo raccontare una cosa un po' schifosa. Ci abbiamo preso in pieno. Vabbè, ma Paolo è un nome. Ma ce l'aveva così detto il mago Dario, che era Paolo da Milano. Vabbè, ma ragazzi. Complimenti anche a Manera, che ha avuto l'idea così perversa di creare una rubrica così, però complimenti a tutti voi. Quindi lei è uno psicologo, Paolo? No, Fabio. Psicopatico più che psicologo. No, non iniziamo a dare troppi dettagli, già abbiamo dato il nome. Vabbè, che è combinato? Vabbè. Che è combinato? Allora, diciamo che tutto accadde quando ero un po' più giovincello. Adesso ecco, subito si prendono le distanze dalle cose. Ero ancora un po' incosciente. E vivevo ancora a Roma a carico dei genitori. Diciamo che ero un po' tra un duro fuori corso universitario e un dolce far niente. Quindi in questo dolce far niente mi dilettavo ad ascoltare quelle che insomma la radio. E per chi non è di Roma, forse Veronica lo sa, chi non conosce la realtà, li trasmettono circa una ventina di radio che parlano solo di calcio. Sì. Calcio, certo. Ebbene sì, io infatti esperta, specifico, appunto, diciamo solo di Roma o di Lazio, quindi c'è proprio la specificità della E lei radio. Che ha fatto? Che hai fatto? Io praticamente, con la mia mente perversa da buon tifoso della Roma, perché sono comunque tifoso della Roma anche se vivo a Milano, ho chiamato proprio una di queste radio, però che parlava solo di Lazio, il cui conduttore era, poi non so se c'è ancora, uno degli ultralaziali più conosciuti, sfegatati della capitale. In quella trasmissione mettevano in palio un biglietto per la partita Lazio-Milan. Sì. Quindi non me lo posso dimenticare. Sì, si risponde. Lei, tifoso romanista, sinceramente ne poteva fregare di meno, insomma, di vedere. Esattamente. Ovviamente si doveva rispondere a una domanda. Io mi sono presentato chiaramente come grandissimo, in questo caso tifoso della laziale nel cuore, proprio fino al midollo. Qui la prima bastardata, perché mi spaccio come tifoso laziale, riesco a rispondere correttamente alla domanda, ovviamente con l'aiuto di Google, altrimenti chi mai l'avrebbe saputa. Tutte, una in fila. Quindi vinco questo biglietto per Lazio Milan. Ma non è finita qui. A quel punto, non so, da questa mente perversa mi sovviene l'idea ancora più diabolica, che inizio a raccontare al conduttore di avere anche i miei genitori, grandi tifosi laziali, in realtà anche loro romanisti, e un po' acciaccati, un po' d'età, e con la voce un po' commossa racconto al conduttore delle nostre difficoltà economiche che comunque e quindi tre biglietti. Quindi anche l'interpretazione, la performance del dramma. Lei mi deve capire. E praticamente gli parlo delle difficoltà economiche, il conduttore, uno dei più sfegatati ultralaziali, si commuove, dice: sai che c'è Paolo, ti do altri due biglietti. Fantastico. Vieni a ritirarli a questo indirizzo. Cioè, io vado a ritirarli puntuale il giorno stesso, perché qualsiasi cosa poi ci ripensavano, meglio andare subito sulla commozione a ritirare i tre biglietti. E per concludere, il giorno dopo, che fa? Guarda il silenzio scenico addirittura. Che fa? ero allo stadio a vendermi tre biglietti. No. Li ha venduti. Vabbè. Ma lei è più che un furbo, è un bastardo. Tu non sei un furbo. No, lei è accantonato. Tu non sei un furbo. Tu sei un'associazione a delinquere da solo. Vabbè, e noi ridiamo. La cosa peggiore in questa avventura, se volete partecipare, ho tante idee per il futuro. Vabbè. La cosa peggiore qual è? Che tu hai utilizzato anche i sentimenti, hai fatto commuovere il conduttore, che ha detto: "Oh, ho capito che sei proprio laziale corcore". Ma a 25 anni 150 euro a te non farebbero comodo? No, cioè, tra l'altro c'è anche il reato di rivendita di biglietto da bagarino proprio, no? Quindi adesso Filippo da Cerano vi devo salutare. Quando incontra Paolo da Milano, ce lo saluti, caro Filippo. Fabio. Filippo, appena torna a Roma ti chiamo, che se andiamo a pian caffè. Va bene, salutiamo Paolo. Beh, questa è una furbata, c'è da dire che vedi lo spirito, prendetelo giusto. C'è chi scrive: svelando furbata dopo furbata, pensate di defurbizzarci, ipocriti. esagerato. Ogni tanto un pizzico di ironia anche non guasta nella vita. Questa storia è stata carina perché ha anche un po' sdrammatizzato il calcio, no? Che a sua volta viene sempre preso fin troppo seriamente. Oltretutto noi garantiamo, come ogni professionista che si rispetti, assolutamente il segreto professionale, quindi tutto ciò che ci dite non viene ridetto, e l'anonimato assoluto, quindi voi potete essere Pinco Pallo e noi non diremo nulla. Ma poi diciamo la verità, dai, non fate i moralisti. Chi nella vita non ha mai fatto una piccola o grande furbizia? Ieri ci ha scritto una pensionata straordinaria, ha detto: la cosa triste di tutto ciò è che io ho ripensato agli ultimi 40 anni della mia vita e non trovo neanche una furbizia. Ma era tristissima, ha detto: ora che mi ci fate pensare, forse ho sbagliato tutto. No, invece, giustamente, se uno non trova. Ma poi la furbata può essere anche solo, che ne so, passare la fila all'aeroporto, uno si distrae e gli rubi il posto, no? Fila al supermercato. Una furbata veloce che mi è venuta in mente adesso. Ero in un hotel e apro il frigo bar e vedo che c'è un succo di frutta. Ho già capito, l'hai riempito. No, non l'ho riempito, il mio era già pieno di acqua. Il cliente precedente l'aveva riempito d'acqua per non pagare il succo di frutta in hotel. Quindi tristissima, furbata, triste. Ma ci resti male, perché quando versi il succo e vedi l'acqua dici: beh, che... C'è stato uno più furbo di me. Perché poi c'è anche la sfida. Detto questo, poi è inutile che uno si indigna, perché l'Italia non sarebbe su tante cose a livello comportamentale come sappiamo che è, se ciascuno di noi ogni tot non facesse una furbata. E comunque, non l'abbiamo detto ma lo facciamo adesso, il nostro Paolo da Milano o Fabio da Cireale o Filippo poi da Cireale è stato defurbizzato. È così, riacquisisce anche un po' una sorta di verginità sociale, per cui adesso sul nostro Filippo nello specifico lasciatemi avere qualche dubbio. Quando passo da Roma vado a fare un controllo. Ma andiamo al traffico, poi l'ultima parte dei funamboli, state con noi. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova, vi presenta i funamboli. A Milan, ma lo sai che questa Veronica Gentili è proprio Gagliarda? Mi piace. Eccoli qua, tutti i parenti mobilitati. È Gagliarda. Vabbè. Allora, un ascoltatore dice: comunque, caro Leonardo, il massimo è bere il succo in hotel, riempire d'acqua, poi lamentarsi in reception e avere un altro succo gratis, ovviamente, con tante scuse. Questa è proprio una furbata, il massimo della furbizia. Allora, scriveteci, 349-238-6666. Cara Veronica, caro Leonardo, vogliamo, visto che sono le 10.48, siamo quasi in chiusura, vedere un rapido sguardo ai giornali e dire anche che cosa ci ha colpito. Io devo dire una cosa personale, nel senso che più volte ho detto, anche quando facevo la rassegna stampa, che Domenico Quirico, inviato della Stampa, è da sempre il mio giornalista preferito. E oggi Domenico Quirico, che ha avuto una lunga esperienza di rapimento in Siria, racconta della cattura dell'uomo che lo rapì, o meglio dell'uomo che ha ideato il suo rapimento. È un libanese, è stato catturato ed è un articolo molto profondo in cui Quirico racconta come sa fare lui, con una penna sublime, il disprezzo, proprio questo è il titolo, ti disprezzo, Obeida, Obeida è il nome di colui che lo ha fatto rapire, vile mandante che in 152 giorni hai scavato un abisso dentro di me. Racconta di lui tenuto prigioniero da un uomo che non ha mai visto, e verso il quale è legato però da qualcosa che non è mai irreale, cioè il dolore del rapimento. Vi segnalo questa pagina molto intensa sulla Stampa di Domenico Quirico. Ecco, la notizia che invece ha colpito estremamente me è il fatto che Forza Nuova abbia deciso di indire una nuova marcia su Roma, o perlomeno abbia tentato di farlo, perché appunto l'idea è quella di farlo il 28 ottobre, che è lo stesso giorno in cui ci fu la manifestazione fascista di Mussolini nel 1922, e chiaramente si sono tutti quanti, hanno preso le distanze, hanno chiesto di evitare che questo accada. Virginia Raggi ha detto che la cosa non è possibile e va tutto benissimo, però trovo che questa cosa sia abbastanza allarmante sulla perdita di confini di ciò che si può fare e ciò che si può dire, perché è vero che c'è il diritto di pensare quello che si vuole, che si possono avere tutte le opinioni, che in questo momento c'è anche un'estremizzazione del pensiero dettato da rabbie, livori, insofferenze, dettate anche da situazioni contingenti di precarietà in cui si vive. Però tra questo e il fatto che si possa addirittura arrivare e che Forza Nuova si senta legittimata a farlo, io trovo che questo sia il segnale più inquietante. Soltanto a pensare di rindire una marcia su Roma con tutto quello che simbolicamente significa, ecco, io questo lo trovo un dato veramente inquietante e fa riflettere su dove ogni tanto bisognerebbe veramente rimettere dei confini, anche nel pensiero, nell'opinione e nella libera espressione. Anche se oggi giornali raccontano che Minniti sta trovando un modo forse per cercare di bloccare questa manifestazione. Però Leonardo, in questi tre minuti anche tu sarai stato colpito da qualche notizia, no? Ma io guardando un po' i giornali, le agenzie, ecco, ce ne sono tre che mi colpiscono. La prima è questa: arrestato spacciatore gentleman, aiutava anziane con la spesa ma aveva a casa 4 kg di cocaina. Quindi questo come dire, aiuta a diffidare delle apparenze. Questo signore, ecco, un insospettabile, un vero gentleman, sempre disponibile, educato, pronto a aiutare le anziane al palazzo, accompagnarle fino a casa. Nessuno si sarebbe mai aspettato che proprio lui nascondesse quasi 4 kg di cocaina, hashish, eccetera, eroina. Quindi diffidate delle apparenze. L'altra, rissa tra ristoratori per contendersi clienti. A Taormina, questa. A Taormina. Ragazzi, ci sono anche le immagini, ha dato uno spettacolo. È il segno della crisi questo, no? Che c'è questo povero cliente in mezzo, venire nel mio ristorante, perché è meglio del tuo, e facciamo le cose di questo tipo. Ma l'hanno proprio preso fisicamente, non l'ho letta io questa notizia. Una porzione di Taormina trasformata in un ring, rissa tra ristoratori per contendersi clienti, numerosi nella città di Taormina, eccetera, eccetera. La polizia ha denunciato 7 persone tra gestori e camerieri a seguito dei calci e pugni volati il 28 agosto, cioè si picchiavano tra di loro. Ci sono credo anche delle immagini prese da qualche telecamera. Ma soprattutto un insegnamento che gli animali possono dare a noi uomini. Oh. India, un uomo cerca di farsi un selfie con un elefante, la bestia si infuria e lo scaccia. Quindi la storia purtroppo è finita molto male. È finita malissimo, credo che sia morto questo turista, tra l'altro. Ho anche visto il video, a un certo punto è interrotto, si era veramente arrabbiato l'elefante. Ah, perché si vede? Purtroppo sì, perché l'elefante pare fosse spaventato, non trovava più la mandria e quindi se l'è presa col pesante signore. C'è Mark da Roma avevi finito con le notizie? No, avevo finito. C'è Mark da Roma con cui concludiamo l'ultimo funambolo del giorno. Mark, buongiorno. Buongiorno Savio, io volevo ritornare sul discorso dei vaccini. Premetto che i miei figli sono vaccinati anche per il meningococco, per cui credo fermamente nei vaccini, però volevo riportare un po' un'informazione che può essere utile per tutti. Come i farmaci, come spiegava bene lei, Milan, sul profilo di rischio della tachipirina, che è il nome commerciale del principio attivo paracetamolo, c'è da dire che c'è un canale di farmacovigilanza per i farmaci, ove praticamente il medico è tenuto a registrare gli eventi avversi, sia sospetti e anche, anche i consumatori, diciamo così, in questo caso di farmaci, possono segnalare eventi avversi. Esatto, però purtroppo è la cosiddetta farmacovigilanza attiva. Esatto, farmacovigilanza. Purtroppo molti degli eventi avversi per i vaccini non vengono registrati, per cui il profilo di rischio effettivamente non viene poi aggiornato e quindi non conosciamo bene quelli che sono gli effetti di eventi avversi per determinati vaccini. Succede anche, succede anche il contrario, cioè che uno segnala un evento avverso che è successo dopo la somministrazione di un vaccino e qualcuno erroneamente associa questo dopo a un ecco vedi è causa del vaccino, cosa che non è così, cioè non è detto che sia non così. C'è necessariamente, ecco, non c'è la conseguenzialità diretta. Però Mark, dobbiamo chiudere perché sentite la sigla già che si alza, la sigla dei funamboli che tornano domani alle 9 puntuali dalle 9 alle 11 con Veronica Gentili, con Leonardo Manera, con tutta la nostra squadra. Alessandro Milan e il suo ciuffo e il mio ciuffo ribelle. C'è anche una foto da cui mi dissocio che gira sui social di me vestito da mago Dario. Stai non molto sono, bene. Abbiamo non sono tentato io. Di risolvere il problema dei capelli non trovando altro modo, ma il mago Dario mi ha aiutato e dopo le invettive sul Capricorno è servito finalmente.